Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In diretta dallo stand di Radio 24, padiglione 2 del Salone dei Libri di Torino, voi siete qui e oggi mi è successo che... Buongiorno a tutti, facciamoci sentire che siamo qui. Bravi. Oh. Allora, io invito ancora le persone in piedi che vogliono fermarsi ad accomodarsi. Vi giuro che non siete obbligati a rimanere tutti 45 minuti. C'è un'interruzione per il traffico? No, per la borsa? Sono 2 anni che lo faccio, sto programma. C'è un'interruzione per la borsa, potete andarvene. Grazie per essere venuti qui. Ringrazio soprattutto quelli che sono qui dalle 3 del pomeriggio, che mi hanno preso alla lettera, la signora per prima, signorina per prima, ma anche la signora Enrica, di cui parleremo più tardi. Enrica ha un sacco di cose da raccontare, e anche la signora Luisa. Gli altri sono arrivati adesso e tant'è. Oggi facciamo un esperimento, immagino l'abbiate capito perché vi ho trapanato il cervello per 2 settimane. L'esperimento è questo qua. Questa puntata e quella di domani sono 2 puntate speciali, si chiamano Voi siete qui ora. Buongiorno a tutti, passa della gente intanto. Credo che lì ci sia un punto di aggregazione, tipo quando si deve evacuare la nave, avete presente? Perché sono tutti lì. Insomma, l'esperimento è un piccolo gioco. Vi ho chiesto di compilare un foglio a voi che siete qui presenti, però il gioco prosegue anche ovviamente online su Facebook e sul Twitter del programma. Il gioco si chiama Oggi mi è successo che, e vi ho chiesto di scrivere, dove sono? Scusate le spalle, questi fogli. Cioè, vi ho chiesto di scrivere su questi fogli che cosa vi era successo oggi. Una cosa, non di più. L'esperimento è stato che quelli che sono arrivati alle 3 mi hanno dato il modo di scrivere una specie di racconto collettivo, che a breve vi leggerò, che è composto, credo, da una decina di oggi mi è successo che. Però ve ne leggo alcuni che sono arrivati, tanto facciamo ringraziamo sempre Davide Ciocia, che è l'ufficiale fornitore dell'orologio dello stand, grazie al quale noi sappiamo che alle 16:13 minuti, giusto, dobbiamo cominciare a raccontare la storia. Partiamo dal primo, ne leggo uno a caso. Giuseppe viene da Bergamo, alza la mano Giuseppe che viene da Bergamo, grande Giuseppe. Ho visto frotte di bambini prendere d'assalto i laboratori di lettura su supporti digitali, il segno dei tempi, mi ha lasciato in bocca un gusto dolce amaro. Gabriella Cisterna d'Asti, dov'è Gabriella? Gabriella, oggi mi è successo che mi sono svegliata in un posto che non riconoscevo, ma poi ho scoperto che era proprio dove volevo essere. Qui c'è del mistero. C'è un microfono per Gabriella. Gabriella, noi vorremmo sapere un po' di più da questa storia, però. Qual era il posto in cui non pensavi di essere, dove in realtà volevi essere? Accanto alla persona a cui volevo essere. Bene, allora a questo punto non ve lo devo chiedere io, ci stanno colando i denti, ci stanno cariando. Un applauso per Gabriella di Cisternina d'Asti. No, Cisterna d'Asti. Perdonami. E poi Sabina proviene da Milano. Oggi mi è successo che ho condiviso il taxi con 2 voci. Cristian, Torino, oggi mi è successo che ho fatto la prima passeggiata con mia figlia, che ha 1 mese, lungo il Po. E poi Pinuccia, questa è anche nella storia. Pinuccia sei tu, grande Pinuccia. Un applauso per Pinuccia, che è arrivata direttamente da Torino. Aspetta, chi è che viene da più lontano qua? Vi prego, ditemi che venite almeno da Novara. Qualcuno che viene da Milano. Milano. E poi là abbiamo dove? Marco, da dove venite voi? Da Milano. Facciamoglielo dire però, sennò sembra che sono finto. Milano. Da Milano. Milano. Qualcuno che viene da Abbiategrasso? Nemmeno. Cioè Milano è il punto più lontano? No, attenzione. Attenzione, abbiamo un... Dimmi. Brescia. Scusa, puoi ripetere? Brescia. Ancora? Brescia. Solo perché è una R meravigliosa. E poi il signore arriva da... Scusami. Loreto. Diciamo anche che tu sei qui per lavoro, non sei qui solo per ascoltare il programma. Confesso, sì, ok. Però sempre da Loreto. Vero. Abbiamo anche un numero di SMS che è sempre quello, magari non è carino se li mandate voi. 349-238-6666, che punto siamo, Bonini? Facciamo un applauso a Bonini, che è l'anima, giusto per farlo imbarazzare, perché è la persona, diciamo, essendo umbro si imbarazza con poco. Il gioco oggi mi è successo che, ve lo dico anche, procede anche su Twitter. Marco, oggi mi è successo che ho presentato il progetto di tesi in inglese di fronte a 40 persone, mani sudate. Jack, oggi mi è successo che la mia ragazza mi ha chiamato poco prima di entrare in ufficio per dirmi che il padre del mio migliore amico non c'è più. Oggi mi è successo che mia figlia è entrata di corsa ridendo all'asilo. Qui c'è gente felice perché si libera dei figli che entrano all'asilo. Gente se ne va intanto. Antonio da Padova. Oggi mi è successo che ho incontrato una persona dopo molto tempo e sono stato deluso. La solita, qui c'è una parola che dobbiamo censurare, persona. Oggi però ho anche lavorato divinamente con mia figlia. Ma prima di cominciare il racconto collettivo, che ho scritto, non garantisco tantissimo, l'ho scritto veramente 10 minuti prima di andare in onda, io vorrei leggere, faccio in tempo, Tiziano faccio dopo, sì, faccio in tempo. Perché quando sono arrivato c'era la prima di tutti qua, era la signora Enrica. Possiamo dare un microfono alla signora Enrica a fare un applauso? Perché le ho scritto, non è questo. Un applauso perché ho 80 anni. Un applauso perché Enrica ha 80 anni, anche se ne dimostra 60. Dai, prego, dai, tecnici dai, che passano anche in diretta. Enrica mi ha scritto questo. Oggi mi è successo che, attesa di 40 minuti sotto il sole per il biglietto. 2. Ascoltato Gianluca Nicoletti che parlava del cuore, del quale già si faceva beffe mio padre 70 anni fa. 3. Sentita e conosciuta la bella Nicoletta Carbone, che è qui da qualche parte. 4. La simpatica Sonia mi consigliava di tornare al pomeriggio per vedere Matteo Caccia di notevole fascino. Ringrazio la simpatica Sonia. 5. L'allegra Deborah Rosciani ci parla delle solite cose serie, nella fattispecie gli ebook. Poi parleremo anche noi di ebook perché ne abbiamo uno che presentiamo direttamente qua. E ancora 6. Conosco il sunnominato Matteo Caccia che mi rifila questo foglio. E concludiamo con: ho fatto le foto a tutti voi di Radio 24, di cui conoscevo solo la voce, e ho trovato Gianluca Nicoletti, possiamo dirlo Enrica, diamo un microfono Enrica, vi prego. No, no. Ho trovato Gianluca Nicoletti più vecchio, serio e stempiato di quanto pensassi. Tra parentesi, credevo un tipo un po' come te. Ma Enrica, gliel'hai detto direttamente a Nicoletti o lasci che glielo dica io? Non ho potuto avvicinarlo, sono arrivata in ritardo, ci hanno aperto gli sportelli per... Ma oggi è la gara che ha la R più bella qui dentro, ragazzi. Com'è possibile? Dico, comunque Nicoletti è ancora in giro e più tardi Enrica. Poi Enrica, tu hai una storia bellissima da raccontare. No, vengo domani mattina. No, no, che mi frega che vedi vengo per Nicoletti. Domani. No, no, voglio che tu dopo mi racconti. Storia? Ma la che hai avuto un figlio fregandotene. Me l'hai raccontata prima fuori onda. Ah, fregandotene bene, che non ci fosse il padre. Sarebbe una cosa normalissima. Beh, mica tanto. Ne parliamo dopo però. 349-238-6666. Avete visto Bonini tutti i segni che me li fa? Me li fa quotidianamente in onda questi segni. Mettetevi nei miei panni, che vita difficile. Allora, siamo arrivati al momento del racconto. Questo è il vero esperimento di oggi, cioè ho preso le vostre storie, le ho messe insieme in un unico racconto. Oggi mi è successo che, e la storia è questa qua. Oggi mi è successo che sono arrivato al Salone del Libro e a sorpresa, un'ora prima della diretta, c'era già un bel po' di gente seduta qui di fronte a me, venuta apposta per partecipare alla puntata. Hanno compilato un foglio in cui hanno scritto il nome e quello che gli era successo oggi. E questa è la loro storia collettiva. Se fossi Pinuccia, vi direi che vengo da Torino e che anni fa avevo smarrito un libro nella scuola che frequentavo. Era un libro a cui tenevo molto e oggi Monica, la direttrice dell'Istituto Rumeno di Venezia, me l'ha riportato. Se fossi Antonio, vi direi che vengo da Padova e che sono deluso. Sono deluso da una persona che non incontravo da un sacco di tempo e che non si è rivelata la persona che credevo che fosse. Ma per fortuna oggi mi è anche successo che ho lavorato divinamente con mia figlia. Se fossi Emanuele, invece, vi direi che oggi ho fatto un salto nel tempo. L'ho fatto ascoltando il tributo a Whitney Houston e la memoria è corsa subito a quel film di molti anni fa. Bodyguard si chiamava. Se fossi un po' più anziano di quello che sono, vi direi che mi chiamo Marco, che vengo da Milano e che mia nipote oggi mi ha regalato una margherita e mia nipote ha un anno di vita e si chiama Sveva. Se mi chiamassi Marta, vi direi che stamattina ho trovato il bagno occupato da Claudia. Claudia è un'amica di sempre e stamattina in bagno abbiamo festeggiato, nonostante fosse occupato e nonostante lei avesse una nausea che moriva. Abbiamo festeggiato perché ieri mi ha detto che è incinta. Se fossi Luisa avrei il cuore colmo di gioia, perché è arrivata una creatura che mi ha riempito di felicità. Si chiama Cin Cin, è una micina con il pelo strappato ed è arrivata sulla mia terrazza stamattina e ha grattato la porta. Se fossi Silvana sarei di ritorno dall'ospedale, dove sono andata a trovare mio marito, che ha subito un piccolo intervento. Sta bene, anche se era un po' rintronato per via di un sedativo. E quindi sono stata libera di venire qui, al Salone del Libro. E quindi sono qui. E infine, se fossi Luciano, sarei sereno. E mi sentirei libero, perché oggi non mi è successo assolutamente nulla. Cause he gets up in the morning, and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time, cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. E adesso tocca a me. Oggi mi è successo che ho preso il treno per venire a Torino. uno di quei treni veloci ma non troppo, di quelli che fermano in alcune fermate ma non in tutte. Perché la macchina ti permette di viaggiare dove e quando vuoi, ma non puoi fare altro che guidare. Il treno invece ti obbliga negli orari e nelle stazioni, ma ti permette di fare altro durante il viaggio e di guardarti molto in giro. Guardarci in giro non è una cosa che siamo molto abituati a fare. Di solito guardiamo in un punto preciso piuttosto che in giro. Guardiamo lo schermo del computer, quello della televisione, guardiamo la pagina del giornale che stiamo leggendo, oppure la faccia della persona a cui stiamo parlando, ma non ci guardiamo tanto in giro. Un po' perché ce l'hanno insegnato da bambini che è maleducazione guardare in giro, perché sembra che stiamo curiosando o ficcando il naso chissà dove. È un po' perché rischiamo di passare per dei perditempo, no? Gente che non ha niente di meglio da fare che non guardarsi in giro. Vabbè, tutto per dire che il treno ti permette di non sembrare né un maleducato né un perditempo, perché sei seduto ma sei in movimento e sembra che non stai facendo nulla, ma in realtà stai andando in un posto. Il posto in cui io stavo andando era Torino e mi stavo guardando in giro. Poi a un certo punto mi sono messo a leggere un libro che mi ero portato apposta. Guardavo un po' fuori e un po' dentro al treno. I primi 30 minuti di viaggio sono filati lisci. Poi è successo che alla stazione di Novara è salito un signore che si è seduto sul sedile davanti al mio. Cioè non proprio di fronte, di fianco, cioè davanti ma di fianco, su quello. Vabbè, avete capito. Mentre si sedeva parlava con una signora di passaggio nel corridoio e le diceva che ieri lui era stato su un treno svizzero e che questo treno era stato puntualissimo e che addirittura, essendo in ritardo di un solo minuto, tutte le ferrovie si erano scusate per il ritardo. Sto tizio aveva una camicia azzurra e un volto paonazzo, era probabilmente scottato dal sole. Ha tirato fuori il giornale e si è messo a leggere. Ecco, da quel momento il suo telefono non ha smesso di squillare, ma soprattutto lui non ha smesso di raccontare storie diverse agli interlocutori diversi delle sue telefonate. Quindi alla prima telefonata di un amico, credo, ha raccontato della vacanza in Thailandia da cui era tornato stamattina, e mentre diceva stamattina a me è venuto in mente che lui aveva appena detto che era stato su un treno svizzero il giorno prima, ma tant'è. Alla terza telefonata ha risposto dicendo che non poteva rispondere perché era nel mezzo di una riunione. E poi ancora che stava lavorando mentre teneva il giornale tra le mani o che era al telefono su un'altra linea mentre era in treno. A questo punto io avevo totalmente abbandonato la lettura del libro per capire chi fosse questo tizio. Quando poi è passato il controllore e lui gli ha parlato per 10 minuti, giuro 10 minuti, raccontando della sua esperienza come capotreno sulle ferrovie tedesche, io ho capito che avevo davanti a me o un genio o un pazzo assoluto. Non capivo se lui stava inventando tutto quello che stava raccontando o se semplicemente stava utilizzando dei pezzi diversi della sua vita o della vita di altre per mettere insieme queste storie e trovare delle giustificazioni o semplicemente degli argomenti di discussione. Io ho trovato una scusa qualunque a questo punto e ho iniziato a parlargli. Il signore Paonazzo era chiaramente un pazzo, ma era soprattutto un genio. Abbiamo parlato del tempo, io gli ho raccontato di avere una passione per la meteorologia e lui mi ha risposto con una laurea in climatologia, pronti via. Mi ha spiegato i motivi per cui il clima sta impazzendo. Poi abbiamo bevuto un caffè al bar e mi ha spiegato che le piantagioni di caffè in Centro America sono minacciate da un parassita che pare essere immune ai pesticidi. Poi mi ha parlato dei suoi viaggi in Asia e delle sue esperienze come cuoco in Germania. Arrivati a Vercelli mi ha detto che sua madre era stata una mondina nelle risaie di Vercelli e gli aveva parlato di quelle risaie fino al giorno della scomparsa. Ora, non vi sto a dire tutto quello che mi hai raccontato in quella mezz'ora di viaggio, perché non avrei tempo e non ce la farei. Vi voglio solo dire quello che ho pensato durante questo viaggio con lui. Perché all'inizio io ho pensato che fosse un cialtrone. Poi ho pensato che mi stesse prendendo in giro. E poi che fosse semplicemente un innocuo contaballe, come dice mia nonna. Alla fine però, mentre lo salutavo sulla banchina della stazione di Porta Nuova, ho pensato che in fondo, che lui fosse un matto oppure no, che mi avesse preso in giro oppure no, che quel signore in qualche modo mi aveva permesso quella mattina, mentre facevo altro, di distrarmi e un po' di fare altro. Ecco cosa mi è successo oggi. Oggi mi è successo che ho incontrato una persona che sembrava la somma di 1000 persone, che raccontava la sua vita come se ne avesse vissute 1000, e con lui mi sono guardato un po' in giro. You can make a plan, carve it into stone. Like a feather falling, it is still unknown. It's a dream you'll soon deny. In diretta dal Salone del Libro, oggi mi è successo che, facciamo sentire che ci siamo, bravi. Chi è che urla? C'è qualcuno che urla anche. Stefania, provenienza Zocca. Non è quello di Zocca, sei tu? Ma non sei quella che mi scrive tutti i giorni che vorrei... Ma lo conosci? Sì. Conosci Giampaolo da Zocca? Sono qui per procura. Non ci posso credere. Un applauso a lei che è venuta. Ma quindi tu sei venuta da Zocca? Perché non hai detto che eri quella che era venuta più da lontano? Sì, sì, sì. Senti, ma cosa c'è a Zocca, a parte Vasco Rossi, di cui ho sentito questa storia straordinaria una volta dire ogni tanto porto mio figlio a Zocca perché ha gli amici a Zocca. In pellegrinaggio. No, parlo di Vasco Rossi. Una volta ho sentito un'intervista a Vasco Rossi dire ogni tanto vado a Zocca perché i miei figli hanno gli amici là. E l'intervistatore diceva e cosa fai quando i tuoi figli sono a Zocca? E lui ha detto sto in casa a parlare con mia madre. Sì, sì, assolutamente. Voi immaginate Vasco Rossi a Zocca in casa con sua madre che dice qualcosa. È terrorizzata dal microfono. No. Scusami, Stefania. Sì, Stefania. Stefania. Spiegami questa storia di Zocca. Tu sei per procura di Giampaolo, Gianluca. No, scherzo, sono qui al salone. Sì. Poi ovviamente Giampaolo, che tu conosci benissimo, perché beh, credo diciamo ormai che mi manda due SMS al giorno, siamo sì, proprio al limite dello stalking. Okay. Però digli che gli vogliamo bene, okay, come dicono il conduttore delle radio private. No, ma vi voglio bene. Scusami, okay, non lo dirò mai più. Cioè, semplicemente, voi vorreste che noi venissimo a Zocca a fare il tour. Sì. Ok, adesso ti do una notizia ufficiale che spezzerà il cuore a Giampaolo, probabilmente. Credo che non riusciamo a farlo quest'anno, il okay, tour. Non per dirgli di non scrivere più SMS, può scriverne quanti ne vuole. Però è probabile che lo facciamo l'anno okay, prossimo. Perfetto, vi aspettiamo, tanto Zocca rimane lì. Benissimo. Quindi. Sara, da Torino, ho passato la mattinata a scuola, oggi mi è successo che ho passato la mattinata a scuola a somministrare le prove in Valsi. Dov'è? Sara, dove sei? Sara, ciao a tutti. Ciao. Sì, sono delle prove nazionali. Ti presenti, non siamo a MTV no, dove la gente saluta. Scusami, oggi ho passato la mattinata a scuola a somministrare le prove. Si chiama Invalsi, è un ente di valutazione, fa delle prove nazionali per valutare i ragazzi delle scuole elementari, medie. No, io insegno. Alle scuole però elementari. Però sono gli insegnanti che devono somministrare queste prove. Invalsi. Sì, è un acronimo. Che sta per? E non me lo ricordo di preciso, comunque una valuta e non me lo ricordo. Tra l'altro Sara è ufficialmente, per chi è a casa e non la può sentire o in macchina, è una di quelle persone che diventa paonazza in un secondo. Se tu dici guarda che sei diventata rossa, lei sta già diventando rossa. Un applauso per Sara e le sue prove Invalsi. E poi soprattutto Tiziano, quanto abbiamo? 2 minuti? No, 1 minuto, dice Bonini. È quello che dice Bonini, voi sapete. Mai, non mettetevi mai contro quell'uomo, è veramente rischiosissimo. È arrivata una famiglia meravigliosa che sono Paolo, Anna e Francesco. Manca solo il marito. Abbiamo scoperto che abbiamo letto un racconto del marito a settembre. Sì, 7 settembre. Anna da Torino scrive: pomeriggio, oggi mi è successo che ho passato il pomeriggio con i miei figli al Salone del Libro per conoscere Matteo Caccia, compagno dei nostri viaggi. Perché tu ascolti in podcast però. Sì, durante noi li ascoltiamo in podcast perché lavoriamo e quindi non riusciamo ad ascoltarti. Va bene Anna, grazie mille, non ti voglio tagliare, no. È che sono più interessanti i tuoi figli. Francesco da Torino: ho conosciuto finalmente Matteo Caccia. Francesco, di qualcosa? Che dire di qualcosa è la roba proprio per non far dire niente, perché tipo quanti anni hai Francesco? Ne ho 8. Ne hai 8, ma ti stringi nelle spalle perché... Ecco, Francesco è uno di quelli che si stringe nelle spalle, invece non diventa rossa. Hai 8 anni, che scuola fai? L'elementare? Sì, l'elementare. Lo passiamo questo terzo anno? Ma quindi hai la comunione quest'anno? No, ho la confessione. Hai la confessione, che è il primo dei sacramenti. No, il primo sacramento è il battesimo. Poi c'è la confessione, poi c'è? C'è la comunione. Ma facciamo catechismo o no? Sì. Ok, comunione, poi matrimonio? Matrimonio, no. Cresima, matrimonio. Ed è improvvisamente quel programma di... Come si chiama quel programma che parla di religione? C'è un programma? Vabbè, niente, dobbiamo chiudere? No, aspetta, fammi solo sentire Paolo, perché è il fratello di Francesco. Facciamo un applauso a Paolo e Francesco. Che scrive: Paolo, provenienza Torino. Non hai fatto tanta strada, Paolo. Oggi mi è successo che ho tagliato da scuola per conoscere Matteo. Cosa vuol dire ho tagliato? Ho 6 anni e, e faccio prima Giulia Falletti di Paola, scuola elementari. Paolo, prendi fiato. Aspetta, diamogli un cucciolo. Facciamo così, mandiamo la borsa, facciamo bere Paolo e poi torniamo. Voi siete qui. Voi siete qui. La fotografia di oggi è quella che ho davanti qui al Salone del Libro. Ci sono una... quante sedie ci sono? Una quarantina? Una cinquantina? Vabbè, insomma, 24. 42, ci sono 42 sedie pressoché tutte piene, ci sono delle persone in piedi che si ostinano a stare in piedi, anche se dicono di sedersi, che possono rimanere, andare via quando vogliono. Dietro di noi c'è una specie di nave mercantile blu, ma lo stand di Radio 24 è decisamente il più bello del Salone del Libro, verde, rosso, nero e basta. Ok, non era proprio il massimo come finale della fotografia di oggi, perdonami Pietro Lacorte. Possiamo dire Enrica, che diciamo è ufficialmente, rappresenta tutto il pubblico in sala oggi, ha decretato che Pietro Lacorte può essere la nonna o la bisnonna di questi bimbi. Dimostri comunque 40 anni. Abbiamo lasciato prima della borsa Paolo, che ha ripreso la salivazione. E perché non avevo il fiato. Ma è straordinario, gli dai il microfono e Paolo parte da solo. Ma hai fatto un corso per tutto ciò, Paolo? Faccio nuoto. Io vado, vi lascio con lui. Fai nuoto? E la mamma a settembre mi iscrive a judo. Straordinario, ma hai il fisico... Non è che ci facciamo male? No, non lo so, l'ho detto, perfetto. Un ultimo applauso a Paolo, che ha ripreso finalmente la saliva in bocca. Visto che non abbiamo tantissimo tempo, come diceva Bonini e come faceva notare, finalmente tutti quanti hanno scoperto la tirannia di Tiziano Bonini nei miei confronti e almeno non mi sento così solo. È uscito un ebook che Luisa prima è intervenuta a sproposito dicendo non si capisce niente di come si scarica. È molto semplice, andate sul sito di Radio 24, c'è già sul sito di Radio 24, c'è sul sito, Bonini, c'è sulla nostra pagina Facebook, sì, però quelli che dicono sì, ma se non ho Facebook, lo potete scaricare dalla pagina Facebook oppure dalla pagina Facebook, al momento a breve sarà sul sito. Sono 100 racconti. Ieri sera, mentre pensavo a quello da fare, cioè non che abbia pensato alla puntata ieri sera, avevo già in mente quello che dovevo fare, però mi è capitato tra le mani uno di questi racconti. Ed è uno dei racconti che mi era rimasto più impresso semplicemente perché era molto divertente. Perché era molto divertente, raccontava come tutti i racconti un pezzo della vita di questa persona e quindi un pezzo della vita nostra. Vi leggo l'oggi mi è successo che di quella persona che ha scritto quel racconto, e capirete chi è, secondo me. Nome Massimo Polpo Neriotti, provenienza Torino. Oggi mi è successo che sono un veterinario dentista per cavalli. Oggi ne ho visitato uno, un cavallo argentino, che non riusciva più a masticare. Dopo circa mezz'ora di lavoro gli ho offerto una manciata di fieno. Yeah! Ha scritto proprio yeah! Grande Massimo. Tornato a casa ho impastato la farina, acqua, sale e olio, ho fatto una palla di pasta che più tardi diventerà una focaccia di recco col formaggio. Massimo Polpo Neriotti, un applauso per il racconto che tutti ricordano semplicemente per un nome, Scagnolari. Massimo. Sì, Scagnolari. Grazie per essere qui innanzitutto. Prego. Mi spieghi questa storia che sei un dentista per cavalli? Sì, sono un veterinario, ma da tanti anni mi occupo solo dei denti dei cavalli. Faccio il dentista per loro. E quanti denti hanno i cavalli? 40 circa. 40 denti? Quindi circa. Quindi il lavoro manca meno che non per gli umani? No, di lavoro c'è. No, nel senso che noi ne abbiamo 27 di denti. Quanti ne abbiamo? No, noi abbiamo una trentina. 30 denti. C'è gente che mi guarda come un imbecille qualunque perché giustamente non so quanti denti abbiamo in bocca, però non faccio il dentista per cavalli. Quindi scusami, ma... niente, Enrica ormai ha preso in mano la situazione. Se vuoi condurre... Domani vieni con Nicoletti... Va bene, la focaccia di Recco. Dopo vendiamo anche la focaccia di Recco. Dopo le do la ricetta. Dopo le diamo la ricetta della focaccia di Recco a Enrica, che ormai è la padrona assoluta della platea. Un applauso a Enrica, che mi ha detto: ho un figlio di 40 anni, sta bene. Lei mi ha detto: ha una panza così. Io chiedo a Nicoletta Garbone di prendersi carico in Mangia con me del figlio di Enrica. Però tutti i giorni i cavalli hanno bisogno di un dentista, questa è la domanda. No, all'incirca una volta all'anno. No, questo lo come noi. Però tutti i giorni ci sono dei cavalli giorni, che hanno sì, bisogno. Per il lavoro in Piemonte, in Liguria, in Toscana, Lombardia. Allora, Massimo mandò, e io Massimo lo farei leggere a te, però è un casino perché sei lì, quindi lo leggo io banalmente. Sei molto bravo a leggere, mi piace molto come leggi le storie. Ti ringrazio, allora ringraziamo sempre Davide Ciocia per l'orologio di cui ci ha fornito, per cui vedete, niente, partono applausi ormai per qualsiasi cosa, vi ringrazio molto. Il racconto di Massimo cominciava così, io vorrei leggere, chi se lo ricorda? Chi si ricorda il racconto di Scagnolari, alzi la mano? Solo Federico e un'altra, 3-4 persone. Bene, allora... ascoltatevi l'inizio di questo racconto perché c'è un pezzo di noi in questa storia qua. Mi dai una base, Bonini, o niente? Niente, andiamo dritti così, non l'avevamo previsto. Che brutta figura. Vado? Lo confesso ora, perché solo ora, a 49 anni, trovo il coraggio. Hai 49 anni, Massimo. Ok. Avevo 15 anni in quei giorni, fine anni 70. È una mattina qualsiasi, a scuola, Istituto Tecnico Agrario di Pianezza. In classe c'è una lezione di non so cosa. Ascolto il professore in attesa dell'intervallo delle 10. Dietro di me sta seduto Scagnolari. Scagnolari pesa almeno 100 kg. Scagnolari porta occhiali dalle lenti molto spesse, culi di bicchieri. Scagnolari non ha voglia di studiare ed è ripetente. Scagnolari ha gli occhiali spessi e dalla vita non vuole seccatura. Vuole dormire ad occhi aperti in classe per tutta la mattina e poi tornare a casa e riprendere a farsi gli affari suoi. Scagnolari si accontenta di poco: mangiare, fumare e guidare il suo motorino. A Scagnolari di tutto il resto non gliene importa. Tanto dice che se lo bocciano ancora andrà a lavorare da suo padre. Suona la campanella dell'intervallo. Mi sono perso questo ebook. Scusatemi, Ecco qua, suona la campanella dell'intervallo. Niente, continuo a perdermi. Rientro in classe poco prima che suoni la campanella di fine intervallo. Sto per sedermi al mio posto quando vedo il diario di Scagnolari sul suo banco. Lui è ancora fuori. Prendo il suo diario e ho un attacco di scherzo da preti. Mai avuto prima e mai avuto dopo in tutta la mia vita. Prendo una penna e sulla pagina di oggi scrivo, a caratteri cubitali, la Francheo, professoressa di scienze, è una puttana. Chiudo il diario e lo rimetto al suo posto. Oggi con lei abbiamo solo un'ora, di solito se ha un'ora lei fa lezione. Nelle ultime 10 volte in un'ora ha sempre fatto lezione, che va pure bene, eh? Basta stare impietriti a guardarla e seguire parola per parola. La Francheo entra e si siede sulla cattedra. Il resto è fatto di iceberg. Io sono completamente dimentico di ciò che ho fatto, tanto oggi spiega. Invece apro la bocca e dice, oggi interrogo. Ci siamo un po' indietro con i voti. Freddo nelle vene, freddo sulle tempie, freddo nell'aria. Solo freddo e paura reale. Intanto quella bellissima e terrificante donna sta scorrendo il suo dito lungo i nomi. Improvvisamente mi viene in mente che può succedere l'impossibile. Adrenalina pura, tempo sospeso, morte, il gelo alle finestre, la fine di tutto, oltre l'apocalisse, l'Armageddon, voglio la mamma. Lei ferma il dito, alza gli occhi e dice... Scagnolari. Arrivo, eh? Io e Scagnolari subiamo un arresto cardiaco in tandem, simultaneo, senza dircelo. Scagnolari, dai, forza! La Francheo lo guarda da sopra i suoi occhiali, come sempre, non sorride. È bellissima la Francheo. Se solo adesso non stesse per ammazzare l'ignaro Scagnolari. E poi non so cos'altro può succedere. Scagnolari è bianco come la neve, 100 kg di neve che si alzano e vanno verso il boia di ghiaccio. Io non ricordo più la prima domanda, non ricordo nemmeno la seconda. Ricordo che alla terza Scagnolari stava remando come un vogatore ubriaco in mezzo al mare in tempesta. Remi rotti, scalmi persi, timone andato. Ma Scagnolari si sarebbe fatto capo orni in retromarcia se avesse saputo cosa stava per succedere. Scagnolari, portami il diario. Scagnolari trascina i piedi verso il banco, prende il diario, si gira e lo porta con grigia mestizia alla Francheo. La Francheo lo prende, lo sfoglia, arriva alla pagina di oggi e legge. Non cambia espressione, gli occhiali sono più mani dei suoi. Lo guarda e dice, l'hai scritto tu? Questo pezzo, che purtroppo non posso leggere tutto perché è troppo lungo e dobbiamo chiudere, si trova sull'ebook di Voi Siete Qui, che è la raccolta delle 100 storie, 100 tra le storie che sono arrivate a questo programma. Io ringrazio quelli che sono venuti qui, devo chiudere, giusto? Siamo già in ritardo, secondo l'orologio di Davide Cioccia siamo già in ritardo, quindi chiudi, come dice Bonini. Io ringrazio voi che siete venuti qui, ringrazio quelli che hanno partecipato all'ebook, lo trovate online, lo scaricate, se avete voglia domani alle 16 siamo di nuovo qui con Oggi Mi È Successo Che, e sabato alle 18 per un mini live. Grazie a tutti. We'll be right back.